Il battesimo e la cena del Signore sono due istituzioni stabilite da Gesù. Con la cena del Signore, i cristiani richiamano alla mente la morte e la resurrezione di Gesù. Con il battesimo i cristiani ricordano la loro morte e resurrezione spirituale. In effetti, la morte e la resurrezione sono ben raffigurate dal gesto stesso del battesimo. Il battezzato viene immerso completamente nell'acqua, simbolo di una tomba, per uscirne, sempre simbolicamente, con una nuova vita. La persona con il battesimo testimonia quindi di voler vivere una vita nuova. Per vita nuova non si vuole intendere che da ora in poi vestirà o mangerà diversamente, ma che la sua vita fino ad oggi governata dalla sua volontà, ora è sottomessa alla volontà di Cristo. Con il battesimo si testimonia di essere diventati figli di Dio e la propria volontà di condurre una vita cristiana con i figli di Dio. La mia domanda è questa: come mai alcuni figli di Dio, pur avendo testimoniato il rifiuto di una vita passata nell'errore e la scelta di voler vivere secondo la volontà di Dio ricevendo il battesimo, in seguito non mantengono la parola data? Forse non sono sinceri? Non hanno forse compreso quello che stanno facendo? E, forse per loro, un gesto compiuto con leggerezza? Non credo. A mio avviso, una delle ragioni fondamentali per cui non tutti i battezzati rimangono fedeli a Dio è che non hanno preso sul serio l'impegno preso, anzi, hanno scambiato la vita cristiana per un gioco. Il gioco è importante per l'uomo non solo negli anni della sua crescita, ma anche quando è diventato adulto. Però, se egli confonde il gioco con la realtà, mettendosi a giocare con la vita, le conseguenze di tale comportamento possono essere gravi. Se poi un uomo si mette a giocare ad essere cristiano, allora va incontro verso un grosso guaio. Purtroppo è possibile giocare ad essere cristiani senza rendersi conto di farlo. L'individuo pensa di aver preso sul serio il cristianesimo, ma certi suoi atteggiamenti, certi aspetti del suo stile di vita, del suo modo di pensare sono segnali che il suo tragitto può anche correre parallelo alla via cristiana, ma non è la via di cui Gesù parlava. Questi segnali dovrebbero indurlo a domandarsi: sono cristiano o sto giocando ad essere cristiano? E voi mi chiederete quali sono questi segnali che debbono indurre il figlio di Dio a riflettere? Certamente tanti, ma ne prendiamo in esame tre. 1. Un primo segnale che un figlio di Dio sta giocando ad essere cristiano riguarda il posto che egli dà nella vita alla sua volontà. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta non riceve la corona, se non ha lottato. Secondo le regole, 2 Timoteo 2, 4 a 5. Quando si gioca, si sceglie da sé qual è il gioco del momento. Molto spesso anche le regole da osservare. E con chi giocare? Se uno sta giocando ad essere cristiano, si comporta nello stesso modo. Il cristiano che ha preso sul serio Dio vedrà la vita come un combattimento e sarà tanto impegnato da non immischiarsi nelle faccende della vita del mondo. La sua volontà, sottomessa alla volontà di Gesù Cristo, gli indicherà quale strada fare, come vivere e quali regole ubbidire, e con gioia egli seguirà il modello della vita di Cristo. Inoltre, Gesù Cristo mette accanto ad ogni cristiano altri suoi servitori, compagni e colleghi, uomini e donne, che quel cristiano non avrebbe probabilmente scelto di avere vicino. Dio gli chiede di amare quelle persone, di servirle con amore. Egli lo chiama al servizio, in uno specifico ambiente, dove sta. Lo chiama a sottomettere la propria volontà alla sua, in quel complesso di situazioni sociali e culturali, ubbidendo a lui nel luogo in cui si trova. La persona che non riesce a trovare un ambiente perfetto o adatto a lui è colui che gioca ad essere cristiano. È colui che stabilisce le regole del gioco e non colui che accetta le regole di Dio. 2. Il secondo segnale che un figlio di Dio sta giocando ad essere cristiano riguarda la costanza dell'impegno. Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse: Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Luca 9:61-62. Durante un gioco ci si può fermare per riposare, smettere perché ci si è annoiati, gettare la spugna, senza un valido motivo e senza causare traumi. E si può anche cambiare gioco. Ma la vita cristiana è un impegno inderogabile, che non ammette ripensamenti. L'impegno è totale e continuo. Il rapporto reale con Cristo non contempla intervalli in cui si possa dire «Oggi non mi sento di vivere da cristiano, voglio vivere in un altro modo, prendo un periodo di riposo in cui andare per un'altra strada. Più tardi magari riprenderò». No. Quell'atteggiamento è lecito se si sta giocando, ma Gesù disse «Nessuno che abbia messo mano all'aratro e poi riguardi indietro è adatto al regno di Dio». Colui che è cristiano solo alla domenica, o quando gli torna comodo, o se non ha di meglio da fare, non ha preso sul serio l'impegno assunto, sta giocando ad essere cristiano. 3. Un terzo segnale che un figlio di Dio sta giocando ad essere cristiano riguarda il suo atteggiamento verso la sofferenza. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero. 1 Pietro 1:4. In un gioco si creano certi ostacoli, si aggiungono anche difficoltà fastidiose e se ne tolgono altre. Fa tutto parte del gioco. Con i tremini si gioca ad un deragliamento, uno sciopero, un ritardo, una rapina. Rendono il gioco più intricato e perciò più interessante. Ma si sa, è solo un gioco. Nella realtà della vita di Cristo, come nella realtà di una qualunque vita umana, ci sono sofferenze, ostacoli, tentazioni. Il cristiano non li ha scelti e non può toglierli semplicemente con un suo intervento. Come reagisce? Forse accusa Dio di essere ingiusto con lui. Non dimentichiamo che Giobbe, nonostante fosse integro e pio, accusò Dio di ingiustizia nei suoi riguardi. Oppure lascia agli altri il compito di resistere alle ingiustizie e sollevare il povero o confortare l'orfano, mentre lui corre ad un suo rifugio privato, nascondendosi dal mondo ostile ed eventualmente odiando che gli ha creato difficoltà e pene. La vita cristiana non è un rifugio antiatomico in cui i fortunati vivono separati dai pericoli di contaminazioni o dai rischi, dai guai e dalle angosce dei comuni mortali. I cristiani vivono in Cristo, ma in mezzo all'umanità. Chi non accetta la sofferenza come parte della vita cristiana non ha preso sul serio le conseguenze della sua scelta e sta giocando ad essere cristiano. Prendere la vita cristiana sul serio significa vivere una vita di impegno con Dio e con la Chiesa. Paolo afferma che se anche il credente dicesse «Io non sono del corpo», non per questo non sarebbe parte del corpo. Far parte del corpo significa far parte di ogni attività di Chiesa, partecipare, seguire l'andamento delle membra. La Chiesa è un luogo di impegno, di servizio. Purtroppo essa è scambiata per un albergo, un ristorante, dove, dopo un lauto pasto, si è liberi di andarsene, senza rendere conto a nessuno. C. È chi scambia la Chiesa per un club, dove uno non ha vincoli morali con nessuno. Dove si va quando si ha tempo, dando precedenza ad altre cose. Oppure, come disse qualcuno, nel nostro tempo, la religione è caduta prigioniera dello spirito turistico. La religione è intesa come una visita ad una località attraente da farsi nel tempo libero, quando se ne abbia sufficienza. Per alcuni è una scampagnata in chiesa a scadenza settimanale, per altri consiste in occasionali partecipazioni a culti speciali. Altri, con una inclinazione per intrattenimenti religiosi e passatempi sacri, pianificano la vita intorno a ritiri, raduni e conferenze. Si va a vedere un nuovo personaggio, ad ascoltare una nuova verità, a fare un'esperienza nuova per rompere in qualche modo la monotonia dell'esistenza. Giustamente, disse Martin Lloyd-Jones nel suo libro Depressione spirituale, uno dei più grandi pericoli nella sfera spirituale consiste nel diventare dipendenti dalle riunioni che sono sempre più numerose. Si assiste oggi ad una sorta di mania delle riunioni, e molti credenti sembrano affetti di riunite. Non sostengo affatto che l'unica riunione debba essere quella del culto domenicale. Ma dobbiamo vegliare per non diventare troppo dipendenti dalle riunioni, al punto di non saper più che fare di noi stessi quando la malattia o altri motivi ci incidono al letto o ci obbligano a stare in casa. La vera pietà dell'uomo si rivela nella solitudine. Bisogna riconoscere che si sente più facilmente la presenza del Signore quando siamo insieme ad altri credenti, che non quando siamo soli. Chi ha di norma questa esperienza, aggiungo io, vive un cristianesimo basato non sull'impegno, ma sulla emotività. La vita cristiana è per persone adulte. Solo coloro che sono dei veri uomini e delle vere donne sopravvivono agli attacchi della fede. Che nessuno, quindi, scambi la vita cristiana per un gioco. E le ragioni sono semplici. Se la persona non è nata di nuovo e gioca ad essere cristiana, quando sarà davanti a Dio, riceverà la più grande delusione della sua vita. Infatti, rivolgendosi a queste persone religiose e formali, Gesù disse: «Non chiunque mi dice, Signore, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7, 21-23. La sentenza di Gesù è veramente traumatica. Egli allontanerà da sé chi ha predicato nel suo nome. Chiamerà malfattore, cioè chi di norma commette il male, colui che avrà cacciato demoni e fatto opere potenti. Si può, dunque, predicare, fare miracoli, cacciare demoni e tutto questo, per gioco. Se invece la persona è nata di nuovo, è figlia di Dio, ma gioca al cristianesimo, subirà delle gravi conseguenze. Giovanni ha scritto nella sua prima lettera: «E ora, figlioli, rimanete in lui affinché, quando egli apparirà, possiamo aver fiducia, e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui, coperti di vergogna». 1 Giovanni 2,28. Alcuni credenti saranno svergognati al ritorno di Cristo. La vergogna è uno dei sentimenti più brutti. Per vergogna alcune persone si sono suicidate, altre hanno ucciso, altre si sono eclissati dalla società. Per vergogna Adamo ed Eva si nascosero da Dio. Perché il credente avrà vergogna in cielo? Risponde Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Perciò, in questa tenda, gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Chi non è coperto di buone opere si troverà nudo, alla presenza di Gesù Cristo. Per questo Gesù ordina alla chiesa di Laodicea: «Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere». Per alcuni il battesimo cristiano è solamente una festa, un punto di arrivo, una buona testimonianza. Senza nulla togliere a questi aspetti, il battesimo è principalmente una solenne promessa di vivere il tempo che resta secondo la volontà di Dio. Esso è un segno visibile ed esteriore dell'opera della grazia avvenuta nel cuore e che si deve protrarre per tutta la vita nella sottomissione alla Signoria di Cristo. La domanda della Scrittura è alquanto solenne e impegnativa. Molta gente vanta la propria bontà, ma un uomo fedele chi lo troverà? Proverbi 26. Di uomini buoni e filantropi se ne trovano, ma la parola di Dio mette enfasi che la fedeltà è una virtù rara. È più facile essere trasportati da un entusiasmo momentaneo che onorare un impegno con costanza e fedeltà. Il battesimo cristiano lancia questo messaggio e questa sfida, rimanere fedele a Gesù Cristo, per servirlo con fedeltà e costanza nella Chiesa proprio quando tutto sembra crollare, proprio quando l'iniquità sarà moltiplicata e l'amore di molti si raffredderà. Matteo mezzanotte 14. Metti dunque la vitalità del tuo spirito, l'energia dei tuoi sentimenti, la forza del tuo carattere, le possibilità della tua mente, il vigore del tuo corpo, al servizio di Gesù Cristo come effetto del tuo serio e inderogabile impegno preso con il battesimo. La tua devozione e consacrazione a Gesù Cristo dovranno essere la risposta all'amore che il tuo Salvatore ha avuto per te. Come la cena del Signore rammemora la morte di Cristo per te, il tuo battesimo ti deve ricordare che lo ami perché egli ti ha amato per primo, che tu sei diventato suo schiavo per amore. Un impegno che dura per tutta la vita. Il credente che avrà fatto della fede cristiana un gioco, un giorno si nasconderà dalla presenza di Dio, non avrà premi né corone, ma per chi avrà perseverato nella volontà di Dio con fede, amore, costanza e impegno, vi è la meravigliosa promessa: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele. In poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Matteo 25:21. Un'ultima prova, che il Figlio di Dio non stia giocando ad essere cristiano, è riscontrabile. Osservando dove si reca, o cosa fa, quando, non essendo costretto dalle circostanze, egli è libero di andare dove vuole, o fare quello che gli aggrada. Gli apostoli, per esempio, andavano in prigione. Ma questo non è sufficiente per rivelare il perché vi andassero contro la loro volontà. Ma quando essi uscivano dalla prigione, liberi di andare dove volevano, immediatamente si aggiungevano a coloro che pregavano. Questo rivela molto dell'uso che essi facessero del loro tempo libero e della loro libertà. Le scelte della vita, non le coercizioni, rivelano il carattere e la serietà di un impegno. Un uomo è assente dalla chiesa la domenica mattina, perché? Se egli è in ospedale per una operazione, la sua assenza non rivela il suo carattere o la serietà dei suoi impegni, se non che egli è ammalato. Ma se egli sta lavorando per costruire la sua casa o si sta allenando in bicicletta, allora la sua assenza è significativa. Essere ricoverati all'ospedale è coercitivo, lavorare e divertirsi per il proprio interesse è volontario. Noi siamo liberi di scegliere, abbiamo possibilità di fare delle preferenze. Possiamo divertirci invece di pregare, possiamo leggere una qualsiasi rivista che leggere la parola di Dio. Le nostre scelte rivelano ciò che siamo. Le scelte rivelano se un figlio di Dio ha preso sul serio il cristianesimo o sta giocando solo ad essere cristiano. Chi ha dovuto lavorare duramente durante la giornata è felice di ritornare a casa per la cena e potersi riposare a letto. Egli ha poco tempo per fare altre cose. Ma, poiché viviamo in una società dove vi è la possibilità di lavorare di meno e di avere, così, più tempo a nostra disposizione per fare tutto ciò che si desidera, il Figlio di Dio rivela i segreti del suo cuore da come usa il tempo libero. L'indifferenza con cui i figli di Dio usano la loro libertà religiosa è veramente deprecabile. Essi preferiscono godere di divertimenti e di diversivi, trascurando la vita spirituale. Si ricordano di pregare soltanto quando si trovano in uno stato di grande necessità. Questo comportamento è molto diffuso e rivela una grande superficialità spirituale e una mancanza di impegno nei confronti di Cristo, al quale hanno donato la loro vita. Il Vangelo di Cristo è un messaggio di libertà mediante la grazia. E noi dobbiamo ricordarci che Cristo ci ha resi liberi perché potessimo servire Lui e non per fare i nostri interessi. Così si è espresso l'Apostolo Paolo: poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. 2 Corinzi 5, 14-15. Cosa facciamo noi nel tempo libero? E con la nostra libertà. L'Apostolo Pietro ammonì: Comportatevi come uomini liberi, non facendo uso della libertà come di un pretesto per coprire la malvagità, ma come servi di Dio. 1 Pietro 2:16. Alcuni figli di Dio traevano vantaggi personali dalla libertà spirituale e pensavano ai vantaggi materiali nel nome di Cristo. Le nostre scelte quindi rivelano la serietà dell'impegno che abbiamo preso al momento del battesimo. Non solo. Noi possiamo anche determinare con le nostre scelte che genere di persone vogliamo diventare. Non è vero che chi ha creduto in Cristo automaticamente sia un cristiano. Ci sono molte persone che hanno affidato la loro vita a Cristo, ma di cristiano hanno ben poco. Quando uno pone una reale fede in Gesù Cristo quale Salvatore e Signore, diventa figlio di Dio e nato di nuovo. Ma cristiani si diventa col tempo. Figli di Dio è una condizione di essere, una posizione legalmente quale salvato. Acquisita. Cristiani è quella del divenire. Nella parola di Dio leggiamo che chi crede e accetta Gesù Cristo come il Signore e il Salvatore della propria vita diventa figlio di Dio. Non troviamo una sola affermazione che chi crede in Gesù diventi un cristiano. Eppure questo nome era ben conosciuto al tempo dell'Apostolo Paolo. La ragione è perché l'espressione figlio di Dio è riferita all'essere, mentre il sostantivo cristiano è riferito ad un cammino, ad una scelta quotidiana. Il cristiano è colui che ha una fede specifica, che lo distingue da ogni altra persona religiosa. È colui che mantiene fede all'impegno dato. Chi non crede che Gesù sia Dio e Signore Yahweh e alla sua unicità. Chi non rispetta l'impegno preso con il battesimo, anche se è nato di nuovo, e di conseguenza è un figlio di Dio, rimane solo un credente. Tutti i cristiani sono credenti, ma non tutti. I credenti sono cristiani. Tu che cosa sei? Se hai un punto interrogativo, chiediti, quando sei libero di andare, dove vai? Qual è il genere di compagnia con la quale ami stare? Dove vanno i tuoi pensieri quando sei libero di sbizzarrirsi? Quando i pensieri del lavoro, degli affari, della scuola, della famiglia ti abbandonano temporaneamente e tu puoi pensare a ciò che vuoi fare invece che a ciò che devi fare, che cosa pensi veramente? Quanto tempo dedichi alla lettura e allo studio della parola di Dio e alla preghiera? Quanto impegno hai messo nel dare la tua testimonianza di ciò che Gesù Cristo ha fatto nella tua vita? Quanto amore hai per le anime perdute? La risposta a queste domande ti può dire molto su di te stesso, più di quanto puoi immaginare. Devi perciò cercare di rispondere sinceramente per sapere se veramente hai preso, con il battesimo, l'impegno di compiere la volontà di Dio con tutta la tua forza, il tuo cuore, la tua mente e il tuo corpo. Dicembre 1998. Ellero.